Poi hai detto che la meditazione serve anche a riconoscere l'ipnosi della mente, il fatto che la mente condizionata continua a riprodurre sempre i suoi pattern, per cui non c'è spazio per nient'altro se non quello. E noi vedi che una struttura ossessiva, in fondo, ce l'hanno un po' tutti le persone. La mente è ossessiva di per sé. Di per sé è ossessiva. Se tu la stai a guardare per un po', tu vedi che lei, se non gli dai un obiettivo preciso su cui concentrarsi, la guardi, ripete quelli che sono i suoi solchi, che ha coltivato per anni, forse per vite, voglio dire, e quindi ripete quei solchi là, non c'è niente da fare. Cosa vediamo? Che se la osserviamo in questo modo, la mente umana ha dentro di sé, stiamo vedendo come c'è la struttura paranoide universale, la struttura ossessiva universale, sono tutte queste caratteristiche proprio della mente comune, non della mente patologica, ordinaria, la mente è quello, non è. Ecco. Allora, la se pratica, uno non è un illuminato, ha queste caratteristiche, la mente fa così. Esatto. Allora, la via della meditazione è una via che consente di avere sempre più degli spazi in cui puoi osservare questo, osservando questo movimento della mente ti disidentifichi e quindi crei uno spazio vuoto per poterci mettere, perché possano arrivare naturalmente le altre cose che ci sono già presenti. Anche le altre sono presenti, però non sono soffocate. E come togliere, è come lasciare che le nuvole se ne vadano, il sole c'è sempre, ma finché ci sono le nuvole. Ecco, mi sto chiedendo, come lavoro Aleph, noi non pratichiamo direttamente con i gruppi la meditazione, pratichiamo un'altra cosa, che è creare dei momenti, a parte che qualche volta sì, nel senso, per esempio l'ultimo gruppo abbiamo fatto questo al mattino, c'era questa bella sala con tutte queste finestre, ho detto ok, adesso guardate, ognuno di voi vi chiedo di andare vicino alla finestra, guardare fuori, osservare qualcosa che vi attira, che vi piace, che vi in qualche modo vi... e cominciare a respirare insieme a questa cosa e fare insomma il discorso per tre parole sulle qualità dell'essere, certo. No? Facendo questo in modo da inspirare dentro questa qualità e così via. Vabbè, le persone effettivamente brevemente hanno fatto questo è stato, come dire, un escamotage per fermare la mente, certo, no? È un escamotage. Ma tantissime delle cose che facciamo servono a fermare la mente, nel senso che vanno in quella direzione, certo. Se tu per esempio fai sviluppare la gratitudine, nel momento che sviluppi la gratitudine gli dai delle immagini per cui la possono sviluppare, in quel momento la mente tace finalmente. Quindi mi sembra che siano modi complementari, da una parte osservare la mente, certo, con la meditazione, dall'altra dargli delle istruzioni che se le seguono la mente si ferma perché ti occupi d'altro e quindi i soldi partner si ferma. Per esempio anche i lavori di coppie che facciamo nei gruppi, quando ci si tiene per mano, si respira insieme, per molte persone creano dei momenti di silenzio interno in cui si accede alla qualità del Questo è quello che ti stavo dicendo prima di Corrado, che lui dopo avere insegnato l'attenzione alle sensazioni del corpo, al respiro come strumento più semplice per svuotare la mente e per riuscire a creare degli spazi, no? Si è reso conto che per certe persone fare questa pratica era proprio impossibile. È impossibile. Perché c'era, per esempio, magari un livello di autosvalutazione talmente forte o un livello di sfiducia talmente grande, cioè che di fatto stavano lì, cercavano, si sforzavano, si concentravano, ma poi alla fine andavano in depressione ancora di più perché non riuscivano a concludere assolutamente nulla. Allora ha capito l'importanza di sviluppare la metta. Che certe persone, sviluppando per esempio pensieri di autoaccettazione, di benevolenza nei confronti di se stessi, di radiazione di fiducia nei confronti di se stessi, cioè, cominciano ad avere quel minimo di base per poter anche poi dopo osservare la mente, che è un'esperienza non facile osservare la mente, osservare tutto quello che la mente produce, viene, eccetera, senza lasciarsi scoraggiare da tutto quanto questo. Quindi bisogna lavorare sui due piani contemporaneamente. Da una parte aiutare a capire le persone dell'importanza, questo secondo me potrebbe essere la funzione di Aleph, non tanto quella di insegnare la meditazione, richiede una pratica specifica che va fatta in un contesto specifico e poi le persone, ma quanto aiutare a capire qual è il senso della presenza. Questo sì. Perché quando le persone poi l'hanno capito, e l'hanno capito veramente, poi si trovano nella loro vita il modo di coltivarla questa. E questo si può fare. Questo si può fare. Sì. Questo è un punto molto... E di fatto fare delle esperienze in questo senso è molto importante, ma nello stesso tempo capire perché funzionano quelle esperienze è importante. Va capito. Ma dargli una cornice, far capire. Bisogna dare, esatto, dargli una cornice. Cioè, tu adesso stai facendo la respirazione, stai facendo una visualizzazione, un'attenzione al respiro, stai sviluppando qualcosa. In quel momento tu fermi la mente. In quel momento tu sei totalmente con quello che c'è. Essere totalmente con quello che c'è, che significa che tu finalmente lo puoi riconoscere. Lo vedi che cos'è quello. Se tu non guardi mai la mente perché hai paura di confrontarla, non vedi quanto è noiosa, ossessiva, ripetitiva, condizionata, ipnotizzata dai suoi contenuti, eccetera, eccetera. Se non la vedi, non lo riconosci, non te ne puoi mai liberare. Sì. È come uno che è alcolista, ma si crede invece di essere meglio degli altri perché lui sa quanto è importante bere e che cosa gli dà, voglio dire. Finché non dice io sono alcolista, non si libererà mai di queste cose, finché non riconosce la sua dipendenza. È così. La stessa è la mente è la peggiore delle dipendenze che abbiamo, è la droga per eccellenza, voglio dire. E siamo talmente ipnotizzati e affascinati da essa che pensiamo che lasciarla riposare anche solo per 5 minuti è un trauma tremendo, perché non riusciamo a stare neanche pochi secondi lasciandola riposare senza lavorare. Perché di fatto escono fuori subito queste cose, no? E allora imparare attraverso esperienze a capire che fermare la mente non è diventare nulla, perché il nostro senso dell'io è al 99% identificato con la mente, sì. Voglio dire, e noi crediamo che se la mente si ferma non ci esistiamo più, sì. No? Che è questa la vera paura della morte, sì. Che lì a un certo punto tutti i meccanismi si fermano. Sì, e allora io muoio. È una morte, infatti. Sì. E la meditazione è l'arte di imparare a morire. A morire a che cosa? A un'illusione. Morire all'illusione che noi siamo il movimento condizionato della mente. Sì. Scoprire che esiste qualche altra cosa, che è il gusto di essere presente, e che man mano che disinnesca i movimenti della mente si crea uno spazio nel quale ci sono già naturali tutte quelle qualità. Sì. Nel quale affiorano la pace, la gioia, il senso dell'unità, l'empatia, tutte queste qualità, capisci? E implica però riconoscere anzitutto quanto è potente il condizionamento. Che questi che noi chiamiamo i demoni, cioè l'energia dell'ignoranza, sono i nostri tiranni, 24 ore su 24, certo. Nascosti in modo più o meno sottile, certo. Ma ci gestiscono tutta l'esistenza, e che le piccole dipendenze esteriori che vediamo, la sigaretta, il caffè, questo, quell'altro, sono soltanto piccole manifestazioni del potere di questi tiranni che sono capaci di camuffarsi e assumere mille forme continuamente nella nostra vita, per cui uno si libera da uno e si ritrova potenziata un'altra, perché il tiranno sta sempre lì dietro, voglio dire, non l'hai riconosciuto. Allora va visto questo. Ti volevo dire, questo modo di affrontare le cose, perché è molto interessante per chi fa psicoterapia, perché di solito la persona che va in psicoterapia pensa, lo psicologo è sano, gli altri sono sani, io sono malato. Cominciare a comprendere che la mente umana normalmente è patologica, e questo, guarda, che i psicologi non te lo dicono, mica. Io quando sono andato in analisi mi hanno detto, guarda, che la mente è fatta così, la sua, la mia, tutti quelli intorno. Quindi se lei non riconosce queste cose, ma questo mi avrebbe dato un sollievo incredibile. Certo. Questo allora io, per esempio, Nardone cosa fa? Fa una cosa molto interessante quando una persona si è occupata per anni, ha fatto certe cose, insomma, è stato iperprotettivo, cogniamo, gli dice, devi esserlo ancora di più, essere ancora più in questa, ma devi diventare più bravo e gli dà dei compiti che prende questa energia. E questo è un modo per evitare di fare pusher, di spingere. Un altro modo per evitare la contrapposizione è dire, guarda che quello che ti succede a te, mi succede anche a me, ci succede a tutti. È normale. Questo secondo me dà un senso di liberazione incredibile. Sì, soprattutto se capisci che questa struttura della mente è perfetta così com'è. Sì, non c'è mica. Quello, il vero problema non è come è fatta la mente, no. È il fatto che noi ci identifichiamo con quella. E che non abbiamo ancora scoperto che esistono altre possibilità dentro di noi, che noi non siamo quello. Quello è l'aspetto condizionato, è l'hard disk che ha ricevuto dei programmi e ripete sempre gli stessi programmi che ha ricevuto, non ne conosce altri, voglio dire. Mentre tu hai la possibilità di staccare un attimo la spina e di mettere altri programmi, Programmazione neurolinguistica. Ci sono, addirittura noi diciamo che i programmi ci sono già, ci sono già soffocati dagli altri. Ci sono già in luce come potenzialità del cuore. Tu li sviluppi. E li sono. Gli dai dei canali, gli dai modo di esprimersi, come hai coltivato quegli altri, così lasci maturare questo che era un seme che stava lì, che non poteva germogliare. Tu gli crei la possibilità di germogliare togliendo le erbacce che lo soffocano, lo fanno morire quel seme là. Esatto, sono le erbacce. Allora questo fa una differenza, secondo me, giorno notte con la psicoterapia comune che c'è in giro. Non è una cosa simile, è totalmente diversa. A me dà un senso di pace pensare in questo modo, mentre quando lavori con la mente condizionata non ne esci più dalle cose, perché ce n'è sempre una, risolvi un pezzo, poi ne viene un altro, poi ne viene un altro, poi ne viene un altro. No, una delle cose che Rocco, ad esempio, adesso sta facendo molto psicoterapia e quindi doveva fare, e lui ovviamente è allineatissimo su questo, sarebbe interessante insieme con te a studiare delle strategie per insegnare alle persone il prima possibile questo, cioè che la persona non debba fare un anno di lavoro prima di capire questa cosa, ma che lo possa capire in fretta. E questo è quello che ci proponiamo di fare in questo corso che facciamo, di riuscire in 3 giorni a passare questo messaggio praticamente, che se vediamo che è stato capito vuol dire che abbiamo fatto un primo passo. Che in psicoterapia individuale è molto difficile, perché in psicoterapia la persona viene già con un progetto, cioè l'idea che deve parlare dei suoi problemi per delle ore. Questo è il progetto che le persone hanno in testa, perché sono educate così dalle idee di fondo. Mentre questo che stiamo dicendo è tutt'altro. E quindi, sì, bene, questo è il progetto. Non so, per esempio, film come Beautiful Mind, no? Certo. Io li trovo affascinanti, perché tu vedi la mente di un genio, che è un genio, ha una creatività incredibile, quell'uomo è un genio, ha creato delle cose meravigliose, nello stesso tempo è psicotico. Come si salva quest'uomo dalla sua mente psicotica? Si salva riconoscendola. Riconoscendola semplicemente e dicendo: questo è un pezzo della mia mente, funziona così. Io adesso ho imparato a rapportarmici. Non ho il potere di annullarla, di azzerarla. Voglio dire, probabilmente è possibile anche questo se uno riesce a sviluppare delle pratiche molto avanzate in profondità, eccetera. Gli toglie però, energia. Però quando tu, perché piano piano la mente si purifica, no? Ma inizialmente il punto importante non è porre la mente nel silenzio, impresa impossibile, voglio dire, no? Il punto importante inizialmente è che mentre io provo a fermarmi nella presenza a quello che c'è, vedo in controluce la mente che invece schizza, e riconoscendo questa come la sua ipnosi e il suo condizionamento, imparo a lasciarla andare e vedo come piano piano quegli spazi si allargano. E quegli spazi che si allargano sono spazi di grande benessere. E tra tutto dobbiamo superare uno dei preconcetti, è che quando entro quegli spazi di benessere in realtà io non faccio più niente nel mondo. Proprio il contrario, anzi, lì ho la possibilità di agire, perché lì c'è uno spazio di libertà, che vedo le cose come sono e non di illusione. Il resto è di illusione e agitazione. Questa è una delle ipnosi più potenti, perché pensa come con l'istruzione universitaria. Oggi 45 esami per fare la laurea. Ora cosa serve passare da una materia all'altra? C'è l'idea, la fretta di accumulare. Accumulare informazioni. È una follia. Accumulare informazioni. Follia. Senza avere lo spazio e la libertà poi di poterle gestire e organizzare nella propria vita in un modo che sia ecologico. Quindi per noi, per esempio, per Aleph, quando parliamo di formazione, diciamo: guarda che quella è tossica, quella cosa lì, dovrebbe essere fermata. Bisogna che non, le università non devono andare avanti così. Bisogna fare qualcosa per cambiare queste cose. Oltretutto c'è il tema, vabbè, ovvio, che dietro questa proliferazione di specialismi, senza che ci sia uno spazio per collegare, per integrare quello che si scopre, si crea veramente la mente divisa, no? Il problema psicotico, cioè che io sono specialista di una cosa, conosco tutto di quella e non conosco le cose che ci stanno intorno, quindi credo di avere una conoscenza che è totalmente distorta. Quindi questo per esempio è una tematica di interesse enorme. Guarda, una delle cose in cui ci stiamo...